Buonasera a tutti, per me è un piacere, un onore e un privilegio essere qua stasera e poter parlare, soprattutto di fronte a un pubblico così numeroso. Come detto, io inizierò a fare un discorso che cercherà di essere appunto incentrato sulla storia di Sonvico, qualcosa di abbastanza concreto, e poi passerò la parola al professor Binaghi che parlerà. Svilupperà una riflessione sulle relazioni tra storia e memoria, quindi a livello un po' più filosofico, un po' Non diverso. troppo, esageriamo perché l'ora è tarda, non vorrei. La riflessione del mio intervento si sviluppa attorno ai due libri che sono stati pubblicati sulla storia di Sonvico, il primo da Don Rovelli nel 27, e il secondo libro, che è stato pubblicato recentemente a cura di Ivan Kamenich e Danila Nova Toscanelli, che potrete poi semmai acquistare a seguito della conferenza. Una domanda che sicuramente ci si può porre e che pure io come studente di storia a volte mi pongo è quale possa essere il senso di scrivere la storia di un piccolo paese, di un paese come Sonvico, per esempio. Perché passare tante ore negli archivi pieni di polvere? Perché scriverci dei libri? Insomma, come mai Sonvico ha addirittura due libri che sono stati pubblicati sulla sua storia? Le risposte possono essere sicuramente molte. E in primo luogo si può sicuramente affermare la necessità di preservare, diffondere l'identità e la cultura locale, una volontà che sicuramente è nobile. E fondamentale per mettere in risalto un patrimonio culturale importante che spesso viene lasciato cadere in oblio o dimenticato appunto in questi archivi polverosi che sono dimenticati magari in un qualche solaio, in una qualche casa comunale, qualcosa e non se ne fa quasi nulla. Questo sentimento è sicuramente legato alla prima opera che prendiamo in considerazione stasera, quella di Don Rovelli del 27. Si tratta per l'appunto di un aspetto quasi romantico e sentimentale, un parroco che scrive la storia del suo paese per i suoi compaesani e per i suoi parrocchiani in primo luogo. Dal 27 ad oggi però la storia è cambiata molto, non chiaramente gli avvenimenti che hanno contraddistinto la storia, ma il modo di scrivere e di raccontare la storia. Non bisogna dimenticare che in fin dei conti la storia è una narrazione, un racconto. Chiaramente gli storici, chi scrive la storia rispetta dei criteri che si spera siano un po' più rigidi e vincolanti rispetto a quelli di un romanziere, ma come cambiano gli stili letterari, allo stesso modo cambiano anche gli stili storiografici nel corso degli anni. Vorrei appunto iniziare questo mio breve discorso analizzando brevemente l'evoluzione della disciplina storica nell'ultimo secolo. In particolare ci sono tre elementi che vorrei prendere in considerazione e che emergono chiaramente, a mio avviso, confrontando i due libri di cui stiamo parlando. Un primo elemento che è lampante, a mio modo di vedere, è la professionalizzazione della figura dello storico. Le università sono sempre più accessibili e frequentate da un numero sempre crescente di persone. E così coloro che si cimentano con la scrittura della storia al giorno d'oggi sono principalmente storici diplomati che hanno ricevuto appunto una formazione accademica. Quindi cosa significa questo? Comporta sicuramente il fatto che dei criteri di rigore per ciò che è il rispetto delle fonti della letteratura sono rispettati, vengono rispettati e sono state sviluppate delle metodologie ben strutturate che hanno permesso di fare della storia al giorno d'oggi una disciplina vera e propria. Si parla non a caso spesso di scienze storiche, di scienze umane. Si può sicuramente discutere sull'utilizzo del termine scienza relativo all'ambito storico, ma sicuramente è un indicatore della professionalizzazione che è avvenuta nel corso del Novecento. Un secondo elemento è la laicizzazione della storia. Tradizionalmente, allo sviluppo delle correnti umanistiche, alla diffusione delle università moderne, coloro che scrivevano la storia erano principalmente i parroci, i membri del clero. Questo per una questione molto semplice: l'accesso alle università era molto complicato e coloro che potevano permettersi degli studi accademici o universitari erano principalmente coloro che facevano parte della Chiesa, che dunque avevano un'istruzione più elevata, chiaramente si occupavano della scrittura della storia. Per l'appunto con il caso di Don Rovelli è un chiaro esempio, il primo che ha scritto la storia di San Vico era il parroco del villaggio, perché chiaramente possedeva un'istruzione, una cultura che gli ha permesso di fare questo sforzo e di divulgare la storia del suo paese alla gente appunto del paese di San Vico. Tutto ciò cambia appunto con l'umanesimo, con la rivoluzione francese, soprattutto con la diffusione delle università moderne, e c'è appunto quella che possiamo definire una sorta di democratizzazione dell'accesso agli studi universitari, che comporta una laicizzazione. Un terzo elemento è quello che possiamo definire specializzazione o tematizzazione della scrittura della storia. Nel Novecento sono comparse nuove discipline come la sociologia, come la psicologia, l'antropologia, l'economia, e queste chiaramente sono andate a influenzare la storia e le correnti storiografiche. Si sono sviluppate dunque delle metodologie, delle maniere di scrivere e di vivere la storia incentrate o focalizzate attorno a tematiche ben precise o ad approcci particolari. Abbiamo dunque una storiografia più sociale. Questo esempio, un esempio appunto per questo caso potrebbe essere la storia legata ai fenomeni migratori o appunto in Ticino tutti i libri che sono stati scritti sulla migrazione sono sicuramente da ricollegare a questa corrente storiografica. Una storia più attenta alla cultura, in questo caso possiamo pensare a delle opere di storia, delle pubblicazioni sull'arte durante la Prima Guerra Mondiale, per esempio le poesie che sono state composte in trincea, queste cose. O ancora una storia basata su un'analisi delle strutture economiche. Questo è l'esempio più classico in questo senso, la storiografia marxista, basata sulla dialettica storica e il materialismo. Questa analisi dell'evoluzione della storia e della storiografia non vuole assolutamente sminuire quanto fatto da Don Rovelli nella sua pubblicazione. Il lavoro di ricerca da lui svolto è sicuramente fondamentale e ha portato contributi decisivi per la raccolta e il riordino delle fonti, così come per la difesa e la promozione del patrimonio culturale locale, come abbiamo detto in precedenza. Quello che si può dire, semplicemente, è che il modo di scrivere la storia è cambiato e le due opere che prendiamo in considerazione questa sera ne sono un chiaro esempio. Ora, una domanda che sicuramente anche alcuni di voi si staranno ponendo è: una storia così professionale, così moderna, tematizzata e specializzata, perché va ancora a scrivere la storia di paese? Perché va ancora a interessarsi di una storia come quella di San Vico, di una storia locale? C'è un senso o è forse una storia che dovrebbe essere più lasciata a degli appassionati di paese o a... Ecco, insomma, perché ecco, gli storici si confrontano ancora al giorno d'oggi con la storia locale? La storia locale è, a mio avviso, un elemento centrale dello studio della storia per ogni storico. Un paese come San Vico fornisce fonti storiche dall'indubbio valore e spunti di riflessione molto interessanti. Vorrei ora fare un breve sorvolo della storia di San Vico per cercare appunto di mettere in risalto questa interazione tra storia locale e una storia più globale, un massimo sistema, se volete, che appunto a mio modo di vedere emerge chiaramente dall'analisi della storia di San Vico. Per limiti di tempo e per non tediarvi eccessivamente prima dell'intervento del professor Binaghi, inizierei dall'alto medioevo, saltando un po' tutto quello che è venuto prima. In questo periodo storico, indicativamente tra l'VIII e il IX secolo d.C., San Vico si presenta come una curtis della Basilica di San Carpoforo di Como. Allora, che cos'è una curtis? Una curtis è un insieme di terreni, una grossa tenuta di fondi, se volete, dominata da un signore feudale che ha ricevuto questi terreni in gestione dal sovrano in cambio della sua lealtà. In pratica il sovrano concedeva a dei signori locali la gestione di alcune terre che potevano chiaramente utilizzare per la loro sussistenza e per sviluppare la loro economia locale, e in cambio questi signori giuravano la loro fedeltà al sovrano e prestavano i loro servizi, per esempio in caso di guerre o cose di questo genere, Bisogna comunque far notare che il feudo può essere assegnato ad un nobile come al clero, appunto il caso di Sonvico, la curtis, quindi il terreno di Sonvico, di tutta questa zona, era assegnato ad una basilica di San Carpoforo. Nel 1040 c'è un passaggio chiave, quando la basilica di San Carpoforo diventa un convento benedettino, e dunque Sonvico diventa, Sonvico e il territorio della Castellanza diventano beneficio di questo convento, e l'abate di San Carpoforo, l'abate di questo convento, è il signore feudale di Sonvico, esercita quindi il suo potere su Sonvico. Ciò comporta chiaramente dei vantaggi per Sonvico, perché il vescovo di Como concede delle regalie, dei privilegi al convento, che chiaramente si ripercuotono anche sulle terre che sono sotto il controllo di questo convento e quindi anche di Sonvico. In questo senso c'è una prima fonte interessante che risale al 1206 e che è disponibile, che è raccolta nell'archivio parrocchiale di Sonvico. Vi riassumo brevemente il contenuto. In pratica l'abate di San Carpoforo esercita con questa missiva, con questa decisione, la giurisdizione giuridica sul territorio di Sonvico e della Castellanza. Nel caso pratico placa una lite tra vicini, tra Dino e Sonvico, quindi c'erano già delle scaramucce già ai tempi, riguardante alcune terre e pascoli, e fa notare che le terre devono essere sfruttate in comune, e sottolinea ancora una volta la sua autorità in materia. Questo appunto, oltre a sottolineare i non facilissimi rapporti tra vicini, il documento ci permette di estrarre numerose informazioni riguardo alla gerarchia della Castellanza, dunque come veniva esercitato il potere, il funzionamento economico di questa realtà, o ancora la storia del diritto, come veniva esercitato il diritto in questo periodo, in queste curtis che erano, se volete, una sorta di l'unità di misura di riferimento per il Medioevo, per la vita locale. E dunque questo è un chiaro esempio di come una fonte locale, un caso locale, una disputa tra vicini, tra Dino e Sonvico nel 1206, possa essere una fonte per interpretare quella che è una storia più globale, una storia più a livello più macroscopico. Vorrei passare ora a un periodo successivo, quello che è caratterizzato col nome di movimento comunale, che avviene nel XII e nel XIII secolo. Il movimento comunale cosa comporta? In pratica i paesi assumono progressivamente delle prerogative comunali, cercano, se volete, di ottenere una certa autonomia, una certa indipendenza. Chiaramente questo processo è più facile per le città più grandi, per dei borghi di importanza maggiore, sia militare che economica, che sotto tutti i punti di vista. Quindi Sonvico segue un po' a ruota i centri principali della regione che si sviluppano prima chiaramente di Sonvico, e in questo caso i due centri, i due poli che determineranno un po' tutta la regione saranno Como e Milano. È in questo periodo che viene scritto, vengono appunto redatti per esempio gli statuti di Sonvico, che sono una sorta di regolamento comunale ante litteram, se volete, una piccola costituzione che spiega quello che determina il diritto pubblico, privato, civile e penale della Castellanza di Sonvico. È un documento del 1473, molto interessante appunto perché, se volete, è una piccola costituzione di quello che poi avverrà anni dopo con lo sviluppo dei comuni veri e propri, quindi fenomeni successivi. Questo movimento comunale, quindi questa tendenza di Sonvico a voler sviluppare una sua autorità locale, una sua indipendenza, avviene in uno scacchiere di rivalità e guerre nel nord Italia che è molto complesso, e quindi Sonvico si ritrova imbrigliata appunto in questi scontri tra Como e Milano principalmente. E visto che Sonvico si trovava sotto l'influenza di Como principalmente, cosa fa? Decidono di seguire la più antica logica del mondo, che è quella: il nemico del mio nemico è il mio miglior amico, e si alleano con Milano, chiaramente. Le posizioni sono abbastanza chiare. C'è Como, che era dominata principalmente dalla famiglia Rusca, e erano dalla parte dei Ghibellini, se volete, dopo spiegherò un po' i termini. E Milano invece dai Visconti, successivamente dagli Sforza, loro erano Guelfi. La distinzione tra guelfi e ghibellini, per spiegare brevemente i termini, risale in origine a una disputa tra due famiglie per la corona imperiale, per il Sacro Romano Impero. In Italia viene ripresa successivamente per distinguere le due fazioni principali della politica italiana. I ghibellini sono coloro che appoggiano l'impero, mentre i guelfi difendono e appoggiano una posizione a favore del papato. Chiaro che per Sonvico l'impero e il papato erano delle realtà molto lontane, era qualcosa di poco tangibile. La posizione di Sonvico di attestarsi su una posizione guelfa è principalmente da leggere come una scelta di alleanze alle spalle di Milano, quindi mettersi a Milano proprio per contrastare quel potere di Como che aveva una forte influenza su Milano, cioè su Sonvico. E Milano era una città comunque un po' più distante, un po' più grande, e gli abitanti di Sonvico pensavano chiaramente che alleandosi con Milano sarebbero rimasti un po' più tranquilli, se volete, un po' più nel loro brodo, per dirlo in maniera molto gergale, quindi sviluppare una loro autonomia locale. La scelta di Sonvico si rivela premiante, perché Milano si impone per l'appunto in questa lotta contro la città sul Lario e non dimentica i favori resi dalla Castellanza, e nel 1414 concede lo stemma ducale. Stemma ducale che potete vedere anche in questa prima slide. Questo qua era appunto il documento del 1414 con cui i Visconti concedono lo stemma a Sonvico per aver scelto la loro causa, essenzialmente la loro posizione. C'è un altro documento interessante del 1497, si tratta di una sentenza di pace fra le fazioni guelfe e ghibelline del Luganese, e in particolare l'arbitrato si rivolge a Sonvico e a Lugano, e tra le altre cose Sonvico è pregata di restituire i beni che aveva rubato a Lugano in questa guerra. C'erano veramente degli scontri locali tra queste fazioni che portavano anche delle morti spesso. Comunque sono delle fonti che attestano appunto degli scontri. Ho letto appunto una fonte che parlava di uno scontro tra guelfi e ghibellini a Cassarate che aveva causato due morti, per esempio. Quindi sono realtà che se torniamo al loro livello macroscopico sono molto lontani, l'impero, il papato, eppure per queste fazioni ci si ritrova a combattere anche nel piccolo, per una scelta di alleanze, una scelta di interessi, chiaramente. La situazione si fa ancora un po' più complessa successivamente, quando in questo scenario già complicato, con questi scontri tra Milano e Como, tra Guelfi e Ghibellini, si presenta un nuovo attore, vale a dire i francesi. Nel 1499 i francesi, sotto la guida di re Luigi XII, scendono per conquistare Milano. Luigi XII diceva di essere un lontano erede dei Visconti e dunque pretendeva il Ducato di Milano. I francesi si impongono abbastanza rapidamente in questo scontro, hanno la meglio su Milano, e dunque Luigi XII diventa, oltre che re di Francia, Duca di Milano. E decidono di seguire la stessa politica intrapresa dai loro predecessori, accordando favori a terre e roccaforti che storicamente avevano difeso la loro posizione, quindi roccaforti guelfe, distribuendo ancora una volta dei privilegi. Per ciò che concerne il Luganese, Sonvico, veramente, col suo castello, con le sue mura e la sua posizione strategica, era una roccaforte fondamentale per controllare la regione, e dunque i francesi concedono ancora una volta questi privilegi a Sonvico, privilegi di cui godeva appunto già da diversi secoli, li confermano per avere un alleato solido a fianco di Lugano. È specialmente è di grande importanza un alleato come Sonvico, perché da nord spingevano anche i confederati, quindi avere delle roccaforti dalla parte di Milano era importante per difendere il territorio. Il documento successivo che vorrei mostrarvi è questo, e si tratta per l'appunto di un documento del 1511 con il quale Luigi XII, re di Francia e duca di Milano, come detto, riconosce e conferma i privilegi di Sonvico e della sua castellanza. Nel documento per l'appunto si richiamano i servizi resi da Sonvico alla Casa di Francia e al Ducato di Milano. E questa fonte ci permette di vedere ancora una volta come Sonvico, grazie alla sua posizione strategica, a un ruolo affermatosi nel corso degli anni e ad una scelta di alleanze sicuramente oculata, questo bisogna darne atto, riesce a difendere i propri diritti e i propri privilegi acquisiti nei secoli. Quindi dopo Como, dopo i duchi di Milano, infine anche il re di Francia riconosce l'importanza di Sonvico all'interno chiaramente dello scacchiere regionale del Luganese. Un'ultima tappa che vorrei prendere in considerazione di questo breve sorvolo storico è quella che riguarda i confederati. I confederati e gli svizzeri, come detto, spingevano da nord verso Milano e nel 1511-1512 muovono verso Milano con veemenza. Sonvico viene assediata e cede in poco tempo, passa nelle mani appunto confederate rapidamente. Lugano presenta una difesa un po' più coriacea, diciamo, e comunque dopo alcuni mesi cede anche Lugano, e quindi i confederati riescono a guadagnare queste posizioni, muovono verso Milano, poi ci sarà la battaglia di Marignano e verranno sconfitti, però appunto le terre che oggi fanno parte del Ticino per l'appunto entreranno a far parte dei possedimenti confederati. Ci si potrebbe aspettare a questo punto una fine dei privilegi di Sonvico, erano alleati dei duchi di Milano, dei francesi, hanno cercato di difendere la loro posizione contro i confederati. Eppure, ancora una volta, non va così. Per evitare di creare nuovi problemi, nuovi disaccordi nella regione, i confederati seguono una politica conservatrice e decidono di riconfermare tutti quei privilegi locali che esistevano già in precedenza, appunto per evitare di creare nuovi problemi. Dicevano, lo status quo che c'era nella sua maniera funzionava, teniamo questa situazione, non complichiamo le cose, tutto va bene così. E quindi Sonvico si ritrova ancora una volta con i privilegi di natura fiscale, economica e giuridica che godeva da diversi anni, che vengono confermati. Vi sono però dei cambiamenti a seguito dell'intervento confederato. In primo luogo, le varie componenti della Castellanza iniziano a trovare progressivamente sempre più autonomia, e quindi nel 1512, per esempio, c'è Villa che inizia a staccarsi dalla Castellanza, separazione che susciterà anche in questo caso parecchie tensioni e vertenze giuridiche. Inoltre il passaggio ai confederati comporta un'altra conseguenza importante che possiamo vedere tutt'oggi: Sonvico non c'è più il castello, quindi cosa è successo? I confederati hanno imposto la demolizione delle fortezze e delle torri che erano di posizione guelfa o che erano private, quindi non volevano lasciare delle possibili roccaforti che avrebbero poi voluto in seguito avrebbero potuto essere un ostacolo al controllo della regione, e quindi nel 1517 il castello di Sonvico è demolito. Oggi di tracce non ne rimangono, c'è una qualche traccia nei toponimi, c'è una Streccia de Castel, penso, se non ricordo male, e quindi appunto, a parte un qualche toponimo, un qualche nome di una via o qualcosa, non rimangono tracce di questo castello che per secoli ha fatto la fortuna di Sonvico. Giungo ora alla conclusione del mio intervento con un piccolo riassunto, una piccola conclusione. La storia locale è a mio avviso strettamente legata a quella che possiamo definire una storia globale. Un paese come Sonvico ci lascia tracce nei suoi archivi, nei suoi toponimi, nella sua struttura, nei reperti archeologici, in qualsiasi cosa, ci lascia delle tracce che possiamo ricollegare a dei sistemi di politici, a dei giochi di potere, a degli interessi che avvenivano su una scala più macroscopica, più grande di quella della piccola realtà di Sonvico e del Luganese. Bisogna anche dire che Sonvico, dal punto di vista storico, non è propriamente un paese qualunque, questo da cadrese mi costa anche un pochettino affermarlo. Nel Sottoceneri la Castellanza, al pari di Morcote e di Carona, che erano altre due terre privilegiate che godevano appunto in base alla loro posizione di alcuni privilegi, rappresenta un'eccezione, quindi questo non bisogna dimenticarlo. ma nonostante ciò la storia locale può essere sempre vista come una sorta di microclima, se volete, in cui in queste piccole strutture si riescono ad incorporare logiche e elementi che si sono sviluppati su sistemi più grandi. Quindi la storia locale può dunque svolgere una funzione di indicatore, se volete, per questo che è interessante per uno storico, perché è una sorta di cartina tornasole che ci permette di valutare e di sviluppare delle riflessioni su quelli che sono poi i massimi sistemi, partendo da delle fonti, da delle realtà che sono locali, piccole e concrete, che appunto ci permettono di sviluppare queste riflessioni. Ed è appunto in questo senso che a mio avviso la storia locale è e sempre resterà una fonte importante e privilegiata per ogni storico, nonostante tutti i progressi che sono stati fatti nella scrittura della storia, nonostante questa professionalizzazione, questa laicizzazione della storia, queste tematizzazioni, specializzazioni, la storia locale rimarrà sempre. Questo è un bene perché permette, oltre al fatto di scrivere dei libri di storia molto interessanti e tutto, ma di difendere un patrimonio locale che ha il suo valore, che va tutelato. Con questo, bene, grazie. Concludo il mio intervento. Grazie, Martino Pagliarotti. Grazie a Martino. Penso che prima i due oratori spiegano e poi dopo ne possiamo dibattere in seguito. Magari è meglio. La parola al professor Maurizio Bilancio. Il professor, ok. Bene, vi ringrazio anch'io per avermi invitato e per essere qui. Ho ascoltato con piacere quanto Martino ha detto, spero di essere all'altezza. Veramente l'allievo ha superato il maestro, questo mi fa molto piacere, quindi sono contento di parlare dopo di lui. Io tratterò un tema che all'inizio può sembrare un po' astratto, poi vedrete che in realtà diventerà molto concreto anche per quanto riguarda la storia di Sonvico. Vorrei raccontare un po' a grandi linee quelle che sono state nella storia due grandi correnti nel come in fondo la storia si scrive. C'è una cosa molto, molto interessante, spesso quello che è la storia a scuola è una storia oggi, è una storia vissuta come qualcosa che viene raccontato da altri, mentre il lavoro dello storico invece è la costruzione della storia a partire da documenti, e sono due cose molto differenti. Questo lo pensavo oggi perché ero in treno per Bellinzona e tornando ho visto di fianco a me due ragazze, probabilmente della commercio di Bellinzona, che tornavano e stavano, probabilmente avevano la verifica domani, ed era su temi, sulla storiografia, su cui adesso parleremo, e una domanda era: cos'è lo storicismo? E lei non sapeva, l'amica non sapeva rispondere, e allora l'altra, per aiutare, dice: ma dimmi cosa ti viene in mente per storia? Noia. Si attacca la risposta. E da lì ho detto: bene, no, abbiamo ancora molto da fare, spero che questa sera non sia una serata noiosa. Volevo partire effettivamente parlando di storiografia, di come si scrive la storia, partendo da due personaggi che vivono in due epoche molto differenti, che però rappresentano, come dicevo, due poli di come in fondo la storia può essere scritta. Il primo è un famoso detto scritto dell'autore Cicerone, è un oratore politico, storico dell'antichità, il quale aveva e ha scritto che la storia è la maestra di vita. Cosa intende Cicerone con questa sua frase? Intende dire che la storia ha la possibilità di insegnare agli uomini le lezioni del passato. In questo caso vuol dire che la storia non insegna solo, ma può essere maestra. Conoscendo la storia può insegnare agli uomini attuali per affrontare il futuro. In questo caso la storia diventa come una sorta di Bibbia su cui l'uomo deve fermarsi a leggere e a capire per poter affrontare il passato. Da questa visione di Cicerone è ripresa anche un altro storico latino che si chiama Tito Livio, per il quale non è solo una maestra di vita, ma è anche, ha anche una funzione etica e morale, nel senso che Tito Livio vedeva la decadenza della sua epoca e immaginava e presentava l'epoca passata come epoca di virtù, di eroi da cui trarre insegnamento e da cui trarre una identità. In questo caso Tito Livio presentava il passato romano come un passato positivo, un passato repubblicano pieno di virtù, e l'attualità, lui nel periodo comunque imperiale, come qualcosa di decadente. Quindi la storia in questo contesto viene ad essere una storia che si basa su virtù morali. Io insegno, imparo la storia, imparo dagli eroi, imparo dal passato e ne attingo un valore etico e morale. È in fondo una forma di identità. Guardando il passato io ritrovo la mia identità. Questo è una cosa abbastanza che, diciamo, nel corso dei secoli ha avuto molto successo quanto come struttura narrativa. Bisogna attendere, come Giammartino ha detto, l'illuminismo e poi l'Ottocento e soprattutto la fine dell'Ottocento e il Novecento con lo storicismo tedesco, che non vi spiego cos'è perché è noioso, e soprattutto con una scuola francese che è la scuola des Annales, di cui uno storico molto importante si chiama Marc Bloch. Marc Bloch vive 2000 anni dopo Cicerone, ma ha qualcosa in comune con Cicerone, il mestiere dello storico, ma ha in comune la morte tragica. Una cosa abbastanza interessante, nel senso, forse sapete che Cicerone è stato accusato da Augusto di aver partecipato al complotto, all'uccisione di Cesare, e Augusto, l'imperatore, praticamente fa mozzare le mani a Cicerone, quindi scrivere la storia può essere pericoloso, e fa tagliare anche la testa. Bloch invece morirà nel 1944 perché entra nella resistenza, verrà catturato dai tedeschi e fucilato dai nazisti. Quindi abbiamo due vite in fondo di storici che in realtà poi entrano nella realtà della storia, non solo come storici ma anche come testimoni della storia. Bloch presenta questa riflessione in uno studio che si chiama Apologia della Storia, ed è proprio l'ultimo libro che scrive mentre ancora come partigiano e anche negli ultimi momenti quando è incarcerato. È in fondo una difesa della storia. Bloch scrive un momento che per lui è tremendo, perché tutto il suo mondo, tutto in quello che lui credeva, in realtà ha combattuto per esso, ma ha perso. La Francia è sottomessa alla Germania e in fondo sembra scrivere un libro, la difesa della storia. Voglio difendere la storia, che in realtà sembra andare in una posizione, in una situazione piuttosto incomprensibile e negativa. Cosa intende per lo studio degli uomini nel tempo? Prima di tutto sottolineiamo il termine studio. Cioè la storia in questo caso rappresenta una ricerca, uno studio che è in continuo mutamento, uno studio con dei metodi che sono di per sé, si vogliono scientifici attraverso l'analisi dei documenti, attraverso un metodo che è un metodo che si vuole di per sé, come dicevo, è valido, riconosciuto e possibilmente messo pure in discussione da altri storici. Quello che poi è importante è che sono lo studio degli uomini nel tempo. Quello che vuol dire il tempo non vuol dire necessariamente il passato, ma è il presente e il passato in quanto tale. Però attenzione, gli uomini in quanto tale non restano sempre gli stessi, ma mutano. C'è una concezione molto interessante in Bloch, dove non esiste un lato o non è presente come primordiale quel lato etico e lato morale della storia. È vero che poi lo storico come Bloch ha un lato etico e morale molto forte, decide di andare nella resistenza, di combattere e morire per quello che credeva. Questo è un lato importante, ma nello studio della storia la storia non deve giudicare, non insegna, la storia va compresa in quanto tale. Va compresa, dunque, è legata allo storico che lo scrive ed è molto soggettiva. Quindi lo stesso avvenimento può essere visto da punti differenti. E un'altra cosa importante è che la storia come metodo storico è sempre una storia in revisione. Cioè un punto fermo, una verità che fino a 10 anni fa sembrava inconfutabile, può uscire da un archivio, un documento, una nuova interpretazione che mette completamente in dubbio quella che è l'interpretazione precedente. Quindi noi abbiamo in fondo due posizioni, una posizione che difende l'identità etica della storia e dall'altra parte una posizione che invece difende la scientificità, la soggettività e anche l'aspetto legato all'incapacità di raggiungere un punto fermo in fondo di quello che è la storia. In effetti Bloch scrive che la storia è essenzialmente scienza del mutamento. Essa sa, insegna che mai si ripresentano due eventi del tutto simili, poiché le condizioni non sono mai esattamente le stesse. Questo è chiaro che in fondo confuta quella che è l'idea della storia come magistra vitae. In realtà ogni generazione è vero che è chiamata a rispondere a delle domande simili, ma le condizioni in cui è chiamato a rispondere alle domande sono differenti e quindi in realtà apprendere dal passato può essere utile, ma non è necessariamente un insegnamento per fare meglio. Si può comunque sbagliare e in ogni caso si sbaglierà comunque. Questo è un fattore importante. Mi direte, bene, adesso questo è interessante, ma cosa c'entra con Solvico in quanto tale? C'entra con Solvico perché ho provato ad analizzare i due libri, La Castellanza e l'ultimo libro su Solvico, cercando di usare delle lenti. Le lenti sono quelle ciceroniane da una parte e quelle blochiane, diciamo, dall'altra parte. E sono uscite delle cose per me interessanti, spero che siano interessanti anche per voi. Se vi annoio potete dirmelo, alzare la mano e dire basta, non ce la facciamo più. La Castellanza di Solvico, come già Martino ha detto, è un libro molto interessante. Io leggendolo lo considero un ibrido e dimostra come il momento in cui Rovelli scrive il suo testo sia un momento di mutazione della storia. Perché? Perché come giustamente ha detto Martino, sull'insegnamento evidentemente di quello che è lo storicismo tedesco, ritorno a non spiegarvi cos'è, c'è un grande utilizzo dei documenti. Il documento in quanto tale diventa una sorta di verità che viene presentato. Se c'è scritto nel documento deve essere così, questo documento è una fonte di verità. Però al di là di questa ricerca, evidentemente basata sulla documentazione, quindi molto scientifica, basata su un metodo storico, in realtà in filigrana nel testo di Rovelli ci sono delle implicazioni che noi le chiameremo ciceroniane o legate a una storia condivisa e considerata come maestra di vita e come creatore o creatrice di esempi morali. Basta semplicemente leggere la prima pagina del libro. Spesso il diavolo sta nei dettagli, a me piacciono molto gli aggettivi. Allora, leggendo un po' questa prima pagina, ho cercato di affrontare soprattutto quelli che sono gli aggettivi utilizzati, ma non solo, utilizzati da Rovelli. Vedete, escono subito alcuni elementi: grandi pascoli, immense foreste, fornito in abbondanza di acque perenni, rupi gigantesche, villaggio saluberissimo, solatio, fertile, che tutte queste cose, non dimentichiamo che da Sonvico c'è la migliore prospettiva, certamente nel più largo orizzonte della regione luganese, tutto questo ambiente naturale così privilegiato, porta alla formazione di un popolo che è un popolo non uguale agli altri, ma è un popolo gagliardo. Non so se siete gagliardi in quanto tale, però è interessante il fatto come qui c'è una presentazione di una geografia. È questa geografia come se fornisce gli strumenti del carattere delle persone che vi abitano. Quindi questa situazione non può altro che creare un popolo gagliardo. Tutti sono gagliardi a Sonvico. Anche questa idea di popolo, in realtà poi a Sonvico, come si è visto poi con la divisione della Castellanza, in realtà non c'è un popolo unito. Ci sono differenti sociali, ci sono chi gode di privilegi, chi meno. C'è tutta una struttura nel corso della storia che in realtà qui è più complicato. Quindi notiamo un aspetto che a me è sembrato subito interessante: come abbiamo lo spirito sonvichese, dico giusto? Sonvichese è forgiato dalla natura sonvichese. Quindi un popolo gagliardo, ma non solo dal popolo gagliardo, ma il visitatore colto, quindi il visitatore che ha studiato, giunge a Sonvico e ben tosto vede non solo queste caratteristiche geografiche, ma vede i monumenti, i costumi, le vestigia da studiare in questo tipico comune ticinese. Una storia antica di secoli che viene tramandata dalle memorie di vecchie famiglie patrizie e nei numerosi documenti dell'archivio locale. Quindi qui vediamo già l'inizio di un discorso abbastanza interessante. Noi abbiamo la natura, la geografia che fornisce il popolo gagliardo, ma la storia in quanto tale è uno spirito che aleggia in forma etica, morale, che crea anche i presupposti per l'azione di questo popolo gagliardo. Se andiamo avanti, lasciato stare l'aspetto legato al legame con la Lombardia, perché sapevo che Martino lo avrebbe trattato in modo molto importante, l'arrivo degli svizzeri in questo popolo gagliardo, secondo l'autore, è un arrivo non accettato nel castello e nella castellanza. Sonvico si opponeva con le sue risorse alle soldatesche svizzere. Tuttavia, l'autorità dei cantoni elvetici non potrà prevalere a Sonvico così facilmente senza speciali condizioni e lunghe trattative. Qui vediamo come il passato, la storia, la geografia di questo popolo gagliardo in realtà fa incontrare gli svizzeri. E ricordiamo chi sono gli svizzeri nel Cinquecento: Machiavelli, armatissimi, fortissimi, cioè sono i soldati per eccellenza. Quindi anche qui abbiamo uno spirito interessante. in realtà bisogna vedere se, dopo lo vedremo, se è veramente così. Quello che in fondo interessa l'autore è che cosa? È mostrare il valore dei gagliardi abitanti di Sonvico, che cosa fanno, che riescono a contrastare a lungo gli svizzeri, l'armata o l'esercito più importante inizio 500 in tutta Europa. Questo porta a lunghe trattative. Questo fatto dunque dell'aspetto geografico, un luogo geografico discosto che permette la creazione di un castello, la storia che è una storia di indipendenza di un popolo gagliardo combattivo, porta con una conclusione abbastanza interessante a Rovelli a concludere un po' l'aspetto storico in poche righe per l'arrivo del Canton Ticino, quindi rivoluzione francese, creazione del cantone, e scrive: quando per il Ticino spuntò l'aura della indipendenza cantonale, i sonvighesi erano tra i primi a salutare il vessillo della libertà. Meglio di altri erano preparati a godere i frutti della patria immune da tirannie d'ogni specie. Quindi questo è in fondo il risultato del percorso storico e geografico. Quindi la storia di Sonvico è stata in fondo un aspetto che ha permesso al comune di entrare nel cantone più preparati di altri di godere i frutti della patria. E questo è un discorso assolutamente interessante. Dunque, se noi guardiamo e facciamo un po' riassunto di quello che può essere la filosofia della storia presente nella Castellanza di Sonvico, noi abbiamo la storia e la geografia, il tempo e lo spazio che forgiano, generano un popolo gagliardo. Questo popolo gagliardo è arrivato, entra nel Canton Ticino, una realtà identitaria del Canton Ticino, meglio di altri, e si interfaccia con una realtà più ampia ancora che quella della Confederazione, perché si garantisce comunque quelle che sono le libertà. Quindi vediamo come nel discorso presente in questo testo abbiamo un percorso storico, diremo con un metodo storico moderno, però dietro una filosofia della storia che si richiama a dei luoghi comuni o una tradizione antica. Per quello che dico che è un testo ibrido perché presenta e vuole rappresentare tre identità in cui il popolo di Sonvico si adatta: prima indipendente, poi nel cantone e nella confederazione. Però cantone e confederazione non possono che essere garanti di quelle che la storia e la geografia di Sonvico ha dato, cioè uno spirito d'autonomia e una situazione geografica piuttosto favorevole. Andiamo a vedere circa 100 anni dopo il secondo volume e riprendiamo un po' quelle che sono i temi presenti nella filosofia, diciamo, della storia di Rovelli. Per riguardo alla storia e geografia, se noi leggiamo a pagina 23 del libro, si dice: lo stato attuale delle conoscenze non permette di avere una visione precisa di quanto fosse continua e estesa la presenza delle ponti, di quanto fosse numerosa la popolazione residente nell'area dell'odierna Sonvico. E qui è interessante, ci ritorneremo magari se abbiamo un po' di tempo dopo, perché la storia in questo caso moderna, con metodi moderni, che in questo caso si vede che rifiuta un disegno etico, cosa fa? Alla narrazione classica non riesce a imporre o a proporre altro nel dire: non è così come si diceva, però non si sa com'è. Cioè si propone il dubbio, Questa è una cosa che è un fattore importante nella storiografia attuale, quella di dire anche ci sono momenti della storia che sono di per sé sconosciuti. In realtà la storia non è tutto quello che è accaduto, ma quello che noi conosciamo che sia accaduto, e conosciamo veramente poco di tutto quello che è la realtà successiva. Storia e geografia, un altro, diciamo, elemento, l'aspetto dei documenti. In realtà basarsi sui documenti, la moderna storiografia può anche proporre che certi documenti non sono validi in quanto tale. Per esempio la donazione di Utbrando, sovrano longobardo, che concede ai territori di Sonvico la basilica di San Campoformo, scusatemi, sto in la lingua mi si sta... Il documento è però palesemente un falso elaborato nel XII secolo. Quindi lo stesso documento in quanto tale, presentato come fonte storica, può essere un falso. Il popolo gagliardo indipendente, pagina 95, nel 1450 Milano accoglie il nuovo signore Francesco Sforza, Sonvico in prima fila a salutare il ritorno di un'autorità centrale che da sempre garantisce sicurezza e privilegi. È vero, Sonvico aveva le sue libertà, ma le libertà, ci ricordiamo che fino alla Rivoluzione Francese, sono libertà che vengono dall'alto, non è dal basso il popolo che di per sé ha delle libertà. Le libertà vengono concesse e vengono, dunque, sono in forma di usufrutto. Quindi anche in questo caso la storiografia moderna mette un po' in discussione questo aspetto del popolo indipendente e gagliardo. Il Canton Ticino, meglio degli altri, erano preparati a godere i frutti della patria immune da tirannia di ogni specie. Pagina 95 del nuovo libro, la formazione del 1803 del Cantone Ticino significò per il comune appena istituito la perdita dei privilegi acquisiti nel periodo della Castellanza e la conseguente riduzione delle risorse a sua disposizione. Appare evidente che gran parte dell'identità di Sonvico, perso il castello con l'arrivo degli svizzeri, l'entrata nel Canton Ticino in quanto tale è un'altra perdita di indipendenza, tutto per quello che erano queste libertà. Quindi ci si domanda se quello che Rovelli ha scritto, al di là della presentazione dei documenti molto importanti, non sia in realtà quello che lui voleva insegnare ai sonvichesi. Cioè lui aveva evidentemente questo aspetto morale. Guardate che questo è lo spirito di Sonvico, lo spirito di Sonvico è ribadito in determinati momenti della storia. Quindi la storia in fondo, per essere maestra, deve essere anche un po' piegata alle esigenze. In fondo ognuno tende a trovarci lezioni nella storia per il proprio vantaggio. Spesso quando la storia porta svantaggio la si dimentica o si fa finta che non esista. Questo è un altro aspetto. La Confederazione Svizzera, ricordiamo i prodi abitanti di Sonvico che difendono da questi svizzeri che sono i più feroci e più importanti soldati dell'epoca. I vicini di Sonvico erano grati agli svizzeri di essere usciti indenni da vicende quanto mai pericolose. Opporsi sarebbe stato un atto sconsiderato, mentre assecondare i desideri dei cantoni sovrani portava alla conservazione dei privilegi. Ecco, in questo caso è vero che si mette ancora in dubbio quella che è la tradizione o quella che viene presentata. Ecco, è molto interessante, secondo me, adesso ho fatto solo due dei piccoli estratti che valgono quel che valgono in quanto tale. Però è molto interessante, cioè ci sono 100 anni di differenza tra un libro e l'altro, ed appare evidente come in questi 100 anni lo studio della storia si è evoluto notevolmente. È chiaro una cosa, e su questo poi vorrei un attimo cercare di discutere con voi o aprire anche un dibattito, perché è evidente che quando Rovelli scrive la sua storia, lui non ha solo in mente i cittadini di Sonvico, ma ha in mente un cantone, il Canton Ticino, pochi anni prima dell'uscita del libro, 3 anni prima ci sono state le rivendicazioni ticinesi, un cantone che nel corso dell'Ottocento, inizio del Novecento, si trova in difficoltà. Beh, la storia è maestra di vita, è in difficoltà fino all'arrivo di Cassis, ora sembra che non ci siano più difficoltà, il Ticino è in difficoltà, di per sé il Ticino si trova in una situazione all'inizio degli anni 20, ma anche alla fine dell'Ottocento, molto svantaggiato rispetto al resto della Confederazione. D'altra parte avete notato la difficoltà che ha Rovelli di introdurre gli svizzeri nel disegno globale in quanto tale, perché in fondo gli svizzeri non è che siano stati molto teneri in fondo con Sonvico, hanno abbattuto il castello, hanno mantenuto evidentemente i privilegi, e però Rovelli cerca di salvare comunque gli svizzeri dicendo: non è proprio colpa degli svizzeri, è colpa dell'Anfocto di Lugano, che era cattivo e corrotto. Quindi è il singolo e non sono gli svizzeri. Però gli svizzeri creano un problema in questo disegno generale, perché evidentemente la nazione svizzera, mi ricordo 2 mesi fa c'è stato questo grande dibattito su una consiglio nazionale, aveva detto la Svizzera non esiste. È vero che nel corso dell'Ottocento e del Novecento la Svizzera deve essere costruita in quanto tale. Attorno alla Svizzera abbiamo degli stati-nazione, come l'Italia, la Germania, la Francia, che hanno un nazionalismo molto forte. Quindi riuscire a costruire un percorso di tipo nazionale, identitario, come quello che fa Rovelli, in realtà è funzionale sia alla identità degli abitanti di Sonvico, sia all'identità ticinese, liberi e svizzeri, sia alla Svizzera in quanto tale. Quindi il discorso di tipo morale, etico, un discorso di tipo patriottico, che evidentemente si collega a quello che è la narrazione patriottica. Se noi guardiamo in fondo come la narrazione patriottica viene creata per gli svizzeri, è una narrazione sonvichese a livello svizzero. Perché è una narrazione sonvichese a livello svizzero? Prendiamo un caso, un libro degli anni 30, quindi contemporaneo a Rovelli, si chiama Gli albori della patria, distribuito nel 1930 nelle scuole ticinesi, che ha come obiettivo ben preciso: offro ora questa piccola opera ai giovani alunni delle nostre scuole per ravvivare in essi la sacra fiamma dell'amor patrio, nobile retaggio dei nostri padri. Quindi ritorna al contesto della storia come maestra di vita, come la tradizione in questo tale. Cosa dice questo testo? Adesso finisco perché sono andato abbastanza per le lunghe e il tempo stringe. Comincia parlando di geografia. Dice: da tempi immemorabili un popolo di pastori viveva solitario in riva al lago dei Quattro Cantoni. Con la spada in pugno erano giunti da non so quale selvaggio e freddo paese del nord. Una discendenza ariana fa sempre bene negli anni 30, e si erano definitivamente stabiliti nell'aspra regione che si estende tra il lago e le altre montagne biancheggianti di neve eterne. dal poi il piccolo popolo divenuto ormai forte e prosperoso si separò e dalla truppa di nomadi uscirono tre rami distinti. Gli uomini di Uri, Svitto, Unterwalden vivevano in pace sulle Alpi. Il fascino del magnifico panorama aveva per tutti le medesime attrattive. E qui poi costruisce il carattere degli svizzeri a partire dalla situazione geografica. Quindi vedete come in fondo si riprende lo stesso discorso filosofico che sta dietro del libro sul Sonvico, in realtà prendendo un carattere di tipo nazionale. Evidentemente poi tuttavia i grandi di questo mondo e re e principi che allora regnavano non era ignoto il piccolo popolo felice e solitario delle tre valli alpine. A Roma il Papa stesso ne aveva inteso parlare in ricompensa di un valido appoggio che i montanari gli avevano dato in una spedizione guerresca. Aveva loro regalato una magnifica bandiera. Quindi la bandiera, il popolo felice, tutto questo è la costruzione, in fondo, sull'esempio o sullo stesso modello di Sonvico anche per la stessa Svizzera. E in tutto questo ambiente roseo noi abbiamo il duca, tra tutti i potenti signori vi erano i duchi d'Austria, i cattivi che arrivano a importunare. E anche qui abbiamo i castelli, abbiamo l'attacco dei castelli e la vittoria dei tre, non la faccio lunga, la vittoria dei tre cantoni, e tali furono i gloriosi effetti di questa vittoria, della caduta degli oppressori e l'aurora della libertà. Ricordate la stessa cosa, aurora della libertà anche per il Ticino. Tra tali furono i primi gloriosi effetti del patto del 1 agosto 1291 e del giuramento solenne fatto al Grutli in oscura notte d'inverno. Qui cercano di mettere insieme il giuramento con il patto, mettendo uno in agosto, uno in inverno. Ogni anno, quando ritorna la notte del 1 d'agosto, fuochi di gioia brillano su tutte le vette sul nostro caro paese e tutti gli svizzeri rinnovano il giuramento di non lasciar mai spegnere nel loro cuore la santa fiamma della libertà. Allora, è molto interessante, in realtà, questa narrazione etica, patriottica, serve evidentemente per fare che cosa? Perché viene data ai ragazzi? E in fondo mi hanno detto che anche la storia di Rovelli ha una tradizione è vista con affetto dagli abitanti di Sonvico, perché riesce a creare una storia etica e morale legandoci l'emotività. La narrazione diventa narrazione emotiva, morale, etica, ha l'obiettivo di raggiungere un patriottismo locale, cantonale e federale. È chiaro che la nuova storia, chiamiamola così, che mette via, toglie queste cose. E evidentemente, se voi domandate a uno storico del Medioevo e dite 1291, vi rispondono che non è successo niente nel 1291, che i tre cantoni non hanno mai giurato, che il patto come quello di Sonvico e Liutprando è un patto a posteriori. Però questo in fondo toglie la mistica, la storia, toglie l'etica, la morale, la storia, ma la rende in fondo più povera. Bene, allora, se non è successo questo, che cosa è successo nel 1291? La storia attuale risponde: non si sa. Non ci sono abbastanza, per il momento, strumenti per capire, per dare a una narrazione alternativa che abbia la stessa forza emotiva. È bello, non è successo niente, ma in realtà noi dobbiamo basarci su qualcosa. La comunità deve basarsi su dei principi di condivisione. E quindi la storia, come la storia vista attualmente, può essere rivoluzionaria per questo tipo di atteggiamento verso il passato. Per quello che oggi c'è un forte, forse avete sentito nel dibattito sulla civica, un forte dibattito tra, è una forte dicotomia tra un certo tipo di atteggiamento storico, disincantato, scientifico, metodologico, e un altro tipo invece che si richiama emotivamente al patrimonio, ai valori dei nostri figli, che in realtà sono due filoni di una, o due facce di una stessa medaglia, che però non riescono e non possono unirsi. Soprattutto questo si vede in Svizzera, perché, perché negli altri paesi il patriottismo, questo tipo di narrazione, pensiamo all'Italia, pensiamo alla Germania, ha portato allo scoppio delle guerre, e dopo il 45 si è cercato di tornare indietro. In realtà per la Svizzera questo tipo di ragionamento ha preservato, o si pensa che abbia preservato dalla guerra, quindi mantiene un suo valore di coesione nazionale. Quindi io concludo semplicemente dicendo che valutare un po' oggi il rapporto col passato è molto complicato, perché la storia o la storiografia tende a dare una visione disincantata, scientifica, di quello che è il passato, dicendo guardate che molte cose che noi pensiamo in realtà non sono accadute così, però facendo questo si elimina una narrazione che da secoli è stata portata avanti senza trovare un'altra, e quindi io posso capire che la popolazione si senta piuttosto orfana di qualcosa, e questa è la grande sfida secondo me della storia nel futuro, riuscire a offrire in modo scientifico anche una narrazione che sia anche una ricerca di senso, di identità in quanto tale. Scusate se ho fatto... Ringrazio per questo. No, assolutamente. Ringrazio il professor Binaghi, e mi piacerebbe fare una provocazione, così, visto che mi piacerebbe sapere chi scriverà il prossimo libro su Sonvico, 30-40 anni, e sicuramente il nodo sarà l'aggregazione con Lugano, no? E vedendo questa storia comunque, anche con le due letture, questa più di più enfasi e quella che non si sa, comunque Sonvico ha sempre mantenuto questa sua autonomia, questa... Invece io personalmente ho vissuto l'aggregazione un po' come una dimissione, come un liquidare il comune. Ecco, allora sarà interessante cosa diranno poi gli storici, non so se si può già così estrapolare, però insomma... È chiaro che, se posso rispondere dal punto di vista storico, su una lunga durata Sonvico paga il locale e il globale, perché l'evoluzione dello Stato moderno porta inevitabilmente a una centralizzazione dell'amministrazione. Parte dal Settecento e arriva ad oggi. Inevitabile? No, non facciamo una narrazione che deve essere inevitabile, quindi c'è un'idea ancora di progressione della storia. Però è vero che se noi guardiamo nell'ottica della progressione di uno Stato-nazione o di uno Stato moderno in quanto tale, tende a una centralizzazione. Questo è anche nella logica dei tempi. Grazie. Che dopo voglia mantenere la sua indipendenza...